Salve a tutti, io sono Jasmine, questa è Radio Big World e benvenuti a una nuova puntata di Curiosità Animate, dove vi parlo dei classici Disney. Il film di cui parliamo oggi è Taro nella pentola magica del 1985 ed è il 25esimo classico Disney. Il film è basato sui libri della serie Le cronache di Pridian di Alexander Lloyd. La trama, che è ambientata appunto in questo mondo fantasy, gira intorno a questa pentola magica, dotata di immensi poteri, dove però risiede l'anima di un perfido re. Taron, che è il protagonista, un garzone aiutante del guardiano dei porci, per recuperare un maiale che gli era stato rubato, si trova a confrontarsi con Re Cornelius, che è appunto il suo capo, che vuole impossessarsi della pentola magica. Infatti Taron, insieme alla principessa Aileen e altri amici, scoprono appunto le magie della pentola magica. Infatti essa risucchia l'anima delle persone e quindi è un'arma molto potente. Dopo varie vicissitudini, Taron e i suoi amici riescono a scontrarsi con Re Cornelius, che viene risucchiato dalla pentola magica, e decidono quindi di distruggere la pentola. Il film, a livello di produzione, ha avuto alcune innovazioni. Per esempio, è uno dei primi film della Disney che avrà l'utilizzo della computer grafica, soprattutto per alcuni effetti speciali, tipo la nebbia, le onde, cose simili. Però è stata una grande innovazione. Nonostante la produzione sia stata appunto innovativa e con un grande dispendio di soldi, in realtà il film non ha riscosso molto successo, anzi quasi per niente. Infatti gli studios stavano andando incontro una crisi. Per esempio, l'animatore Don Blatt, che era andato via nel 1978 durante la produzione di Red e Toby, avendo aperto uno studio tutto suo, aveva iniziato a fare dei film che erano molto competitivi, come per esempio Alla ricerca della Valle Incantata, che ebbe tantissimo successo, e quindi i film Disney stavano subendo la competizione. Inoltre la trama del film non era molto adatta per un pubblico di bambini, poiché era molto horror, anche un po' fantasy, e quindi diciamo che questo insieme di cose non ha permesso al film assolutamente di avere il successo che meritava, anche perché è stato riscoperto molto dopo, in tempi recenti, poiché assomiglia un po' alle trame di Tim Burton, di conseguenza è stato apprezzato molto di più recentemente. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.